Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Luca Palamara, 47 anni, sposato, romano, con due figlie, magistrato della Procura di Roma. Dal 2008 al 2012 è stato il più giovane presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Dal 2014 è membro togato del Consiglio Superiore della Magistratura. Si occupa di disciplinare delle riforme. Con i colleghi del CSM è stato uno dei protagonisti della grande spartizione che, con 478 nomine, è stato il primo atto significativo di questo nuovo CSM guidato da Giovanni Legnini. Adesso Renzi dice: i giudici ci sono, facciano le sentenze. Dottor Palamara, ha ragione Renzi? Mancano 1100 giudici, quindi gli organici devono essere coperti. È vero che c'è la necessità di ovviare a un problema che è sotto gli occhi di tutti. Ma Spataro risponde: mancano le risorse, questo? È questo, e quindi ovviamente quando gli organici saranno completi, indubbiamente ci sarà la possibilità di rispettare i tempi dei processi, che è il tema fondamentale, a mio avviso, del momento. Senta, l'Associazione Nazionale dei Magistrati, prima dell'incontro di ieri col governo, ha minacciato lo sciopero, lo farete? È una decisione che spetta al Comitato Direttivo Centrale, mi sembra, da quello che è emerso all'esito del confronto, che si vada verso altre soluzioni. Ma chi lo vuole? Soluzioni. Chi lo voleva questo sciopero? C'è sicuramente una sorta di insofferenza all'interno della magistratura, perché mancano i cancellieri e quindi chiaramente diventa impossibile arrivare a sentenze. Mi è sembrato però ovviamente una forzatura di fronte alla quale, anche all'esito dell'incontro di ieri, sicuramente si potrà andare verso altre soluzioni. Senta, ma l'Associazione Nazionale Magistrati interviene anche sulla riforma del processo penale, perché? Perché io ritengo fondamentale che nel corso dell'iter di un'approvazione di una legge la magistratura associata possa far sentire la propria voce per dare un contributo rispetto a quelle che sono le reali problematiche, e soprattutto valutare l'impatto della legge sulla materia che dovrà essere disciplinata. Però, dottor Palamara, l'ex ministro Nitto Palma ha detto che non si ricorda una riforma che abbia avuto il consenso dei magistrati. Insomma, non vi va mai bene niente. Vabbè, ad esempio quella sulla riforma sulle circoscrizioni giudiziarie ce l'ha avuto. Ce l'abbiamo trovata. Sì, questo non è vero. Quindi, le cose vanno bene bisogna dirlo. Però, se noi diciamo sempre di no, invece c'è il rischio di ripiegamento corporativo che fa solo male alla magistratura. È un rischio forte. Ecco. Pier Camillo Davigo però dice che la riforma è inutile e dannosa. Ma che cosa è inutile? Quello del processo penale mi sembra un'affermazione troppo generica, perché ci sono cose che vanno bene, ad esempio quella della prescrizione, un passo in avanti che a mio avviso deve essere portato a conseguenza, quindi non tutto è inutile e dannoso. Ci sono degli aspetti che non vanno bene. Ma dannoso per chi? Dannoso perché c'è una norma, ad esempio, che prevede la vocazione della Procura Generale in caso di inerzia del PM precedente. Questo rischia di indubbiamente ingessare l'attività del pubblico ministero, renderla più veloce. Quindi io penso che si debba trovare un punto di equilibrio. Sono convinto che ragionando lo si possa trovare. Senta, un magistrato importante come il procuratore aggiunto di Venezia Nordio cosa dice a proposito del processo penale? In Italia noi abbiamo introdotto un sistema processuale accusatorio, introdotto con il cosiddetto processo alla per di mezzo, che però ha mantenuto tutti i connotati del sistema inquisitorio, e quindi come avere una Ferrari con il motore della 500 o viceversa, e la macchina si è inceppata. Ha ragione, no? È vero, ha ragione. Sicuramente è un tema sul quale noi conviviamo dal 1988, che è la data di entrata in vigore del nuovo processo penale. Ci sono delle storture che non sempre sono state eliminate. Ma 25 anni è ancora tutto così. E bisogna, sicuramente è un meccanismo farraginoso, caratterizzato da inutili formalismi, quando bisogna distinguere invece tra garanzie difensive sacrosante e inutili formalismi che appesantiscono il processo. Senta, dottor Palamara, ma questo voler decidere sulle leggi invece di limitarsi a applicarle è un retaggio del periodo in cui i magistrati pensavano di essere loro a dover fare anche politica? Io vorrei uscire da questa affermazione, perché sembra che la magistratura vuole appropriarsi di tutto. Secondo me ognuno deve svolgere il suo ruolo, cioè il Parlamento che fa le leggi e la magistratura che deve applicarle. Che ci sia in uno Stato però la possibilità di un confronto anche prima della legge, io lo reputo, se mi fa usare una metafora calcistica, pure un gioco di squadra, perché sono istituzioni che fanno parte dello Stato, la magistratura e il Parlamento, quindi però che ci si parli è un bene per tutti. Però sembra che i magistrati accettano solo le leggi che scrivono loro. Ma no, questa è un'affermazione che non è vera e che viene usata solo per strumentalizzare in alcune occasioni il dibattito politico. Io su questo Senta, non Palamara, sono ma d'accordo. Sembra quasi che l'uscita di scena di Berlusconi però ha fatto emergere una conflittualità all'interno della magistratura che prima era nascosta, è vero? Sicuramente dobbiamo uscire da un'eventuale sindrome, perché io penso che ogni fase politica ha la sua propria caratterizzazione. nel periodo in cui c'era Berlusconi indubbiamente abbiamo vissuto delle leggi che mettevano in discussione i principi dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Su quello la magistratura era molto compatta. Venuta meno questa situazione, sicuramente si riaffiorano delle differenze culturali. Ecco. Ci sono due differenze di fondo all'interno della magistratura che devono, a mio avviso, trovare una sintesi, che c'è chi privilegia un profilo sindacale corporativo, chi invece affronta anche tematiche di interesse della società, e secondo me su questi temi bisogna trovare la sintesi. Senta, altrimenti ci si rischia di dividere. Ecco, Pier Camillo Davigo, sempre lui, il presidente dell'ANM, ha accusato i politici di essere corrotti. Lei è d'accordo con Davigo? Io dico che non tutti, si può affermare che tutti rubano, perché non è vero, bisogna saper distinguere, cioè chi ruba e chi non ruba. Tendenzialmente io sono contrario alle generalizzazioni. Quindi ha sbagliato. È un'affermazione che rischia di essere così formulata generica. Ecco, ma di fronte per esempio a delle formulazioni del genere, il CSM cosa fa? Interviene, non interviene? No, questo fa parte della libertà di manifestazione del pensiero, in questo caso oltretutto fatta dal presidente dell'ANM. Quindi non censuriamo, sono diversità di idee e di opinioni che sono il sale, io penso, anche dell'associazionismo. Sì, nel mondo dominato dai media, però gli errori dei magistrati nella fase istruttoria portano a casi drammatici di distruzione di vite, di carriere. Qual è l'antidoto? Allora, è chiaro che la tematica dell'errore è una tematica, a mio avviso, fondamentale. Abbiamo fatto la prima parte, i magistrati si occupano delle leggi, dobbiamo occuparci anche di quello che non funziona al nostro interno. Cioè, facciamo degli esempi. Lo chiede la società. Ecco, e se noi non ci occupassimo di questo tema, perderemmo noi stessi per primi. Ecco, però io le faccio degli esempi chiari. Ignazio Marino assolto, ultimi giorni. Roberto Cotta assolto, Raffaella Pilot, Lady Alluvione assolta, solo per parlare dei casi di adesso. Ecco, più che fare errori, si ha l'impressione che lì dietro ci sia una magistratura che fa politica. Allora, possiamo fare un distinguo. Sì. Ci sono delle situazioni in cui ci sono degli errori giudiziari, delle cose sbagliate. D'accordo. L'errore è la cosa più brutta che possa capitare nella carriera non del magistrato. Dubbio. Ci sono invece diversità di valutazioni di atti che emergono nel processo. A mio avviso le vicende da ultimo citate, quelle di Marino, quelle di Cota, questa... bisognano innanzitutto di una situazione molto chiara, di leggere per quale motivo sono stati assolti. Se noi non capiamo il motivo, però non possiamo dire che un errore. Le loro carriere sono ma non è finito il processo. C'è un'eventuale impugnazione, c'è un appello, c'è una cassazione. Quindi io distinguerei prima questi casi. Prima si muore, poi si aspetta. No, cioè, è chiaro che noi dobbiamo garantire la prima domanda, la certezza dei tempi del processo, perché di fronte a queste situazioni sicuramente non si può stroncare la vita di un politico, stroncare l'attività di una azienda, stroncare l'attività di un professionista. Senta Palamara cosa diceva Montanelli sulla responsabilità dei giudici. Io sono convinto che la magistratura debba essere indipendente, però chiedo ed esigo che abbia un autogoverno di controllo e che soprattutto risponda dei suoi gesti. Oggi noi abbiamo una magistratura che non risponde a nessuno dei suoi errori, spesso catastrofici. Montanelli ha ragione. Erano tanti anni fa, perché poi abbiamo avuto anche la legge sulla responsabilità civile, quindi una legge ce l'abbiamo avuta. Applicata quanto? Adesso è entrata in vigore 2 anni fa, quindi è stata una cosa molto controversa all'interno della magistratura. Diciamo così, il CSM riesce a correggere questi errori? Il CSM sta correggendo questi errori, questo lo voglio sottolineare con forza, anche grazie alla vicepresidenza dell'onorevole Legnini. Sicuramente abbiamo grande attenzione al tema dei controlli, quelli delle valutazioni di professionalità. Ogni 4 anni un magistrato è valutato nello svolgimento della sua attività, e anche con riferimento al funzionamento del sistema disciplinare, che indubbiamente in questo momento rappresenta un efficace momento anche di affermazione della responsabilità del magistrato. Senta Palamara, ieri vicino a molti magistrati c'erano i partiti di sinistra. Oggi sembrano un po' sostituiti piuttosto dai 5 Stelle, è così oppure è un'interpretazione giornalistica? Adesso io penso che sicuramente il quadro politico di riferimento della magistratura è totalmente cambiato, direi anche nell'ultimo quinquennio, anche per esperienza diretta. Che ci sia stata una sostituzione mi sembra un'affermazione non dimostrata. È vero che sicuramente oggi è importante anche per la magistratura avere un reale interlocutore e riferimento. Ecco, la vicinanza in qualche modo, il riferimento ai partiti, aiuta o rende più difficile la lotta alla corruzione? nel rapporto tra magistratura e politica, io penso che bisogna fare un chiaro momento di distinzione. La politica deve occuparsi appunto di ciò che interessa il bene comune e l'interesse collettivo, la magistratura pure. Allora, e mettiamola così, però, scusi, la mettiamo in un altro modo. Un magistrato come Cantone ha portato metodi e risultati nuovi in questa lotta alla corruzione? Io penso che è stato molto importante comunque l'istituzionalizzazione dell'ANAC, quindi di un'autorità anticorruzione. Che ci sia stato poi un magistrato come Raffaele Cantone sicuramente ha consentito di polarizzare l'attenzione su un tema che prima era messo, diciamo, nelle retrovie, che è quello della prevenzione della corruzione, che a mio avviso è uno degli argomenti centrali. Di questo bisogna dar atto, appunto, che questo argomento ha dato un sicuro stimolo. Senta, Palamara, lei ha detto, è vero, sono parole sue, è vero che chi è sotto inchiesta salta. Però non è stata la magistratura a togliere l'immunità parlamentare. Ma vuol dire che sarebbe stato meglio lasciarla? Questo io non spetta a me dirlo. Io dico solo una cosa, che nel 1948, quando entrò in vigore la Costituzione, si trovò questo punto di equilibrio. Cioè, con la previsione dell'immunità c'è un equilibrio dei poteri maggiore. Sicuramente venne trovato nel momento in cui si garantiva l'autonomia e l'indipendenza della magistratura con il CSM, venne introdotto l'istituto dell'immunità nell'articolo 68 per equilibrare i poteri. Nel 1993, forse perché il Parlamento si era pentito di aver una situazione l'autorizzazione a procedere in situazioni abbastanza clamorose, si decise di toglierlo. Senta, da quel momento sicuramente si è squilibrato il rapporto, una situazione diversa rispetto a quello del 1990. Glielo chiedo in un altro modo: l'immunità c'è o no negli altri paesi europei? In alcuni casi c'è, sicuramente nei paesi più evoluti, in Francia c'è, però in altri paesi sicuramente questa è una scelta pure dei politici di mettersi al pari degli altri cittadini, eppure un discorso di eguaglianza tra i cittadini, che indubbiamente è un argomento a mio avviso condivisibile, che presuppone una forte fiducia anche nella magistratura. Senta, dottor Palamara, parliamo del CSM, 478 nomine abbiamo detto, fatte su 478 da fare, missione compiuta. Direi che c'è stata una rivoluzione copernicana da questo punto di vista, perché l'abbassamento dell'età pensionabile da 72 anni a 70 ha sicuramente portato ad un rinnovamento anche generazionale della magistratura, che a mio avviso deve essere una strada da perseguire. Questo ha portato alla scelta e alla nomina di dirigenti, di procuratori, presidenti dei tribunali, che sicuramente rappresenta un nuovo corso della magistratura. Senta, visto da un altro punto di vista sembra una buffata lottizzatoria. Questo a proposito della domanda iniziale, io rivendico invece il fatto che questo Consiglio Superiore della Magistratura e l'impegno di tutta la magistratura deve essere quello di privilegiare il merito. E si queste può sbagliare. Sono state scelte di merito? Sono scelte tutte molto importanti che sono state fatte. Abbiamo coperto importanti procure italiane da Milano, Bologna, quindi però, Palermo. Però, quindi penso che queste nomine, che spesso passano in secondo ordine, sono state nomine unanimemente riconosciute. Senta, però, sulla dottor scelta, Palamara, al di là della spartizione, quindi dottor Palamara, non farei proprio. Però per ottenere le nomine, molte procure, le correnti si sono scannate, sbaglio? Questo è un retaggio, se me lo consente, del passato. È ovvio che le correnti esistono all'interno della magistratura. Ma hanno del bene o del male alla magistratura le correnti? Sicuramente le correnti sono stato un veicolo e un impulso culturale all'interno della magistratura fondamentale, che si discuta su come. E poi? E poi sicuramente ci sono stati momenti in cui hanno degenerato e non hanno funzionato, e contro appunto la spartizione lottizzatoria o la degenerazione del correntismo ci deve essere un impegno da parte di tutti. Senta, dire però che tutto ha funzionato sarebbe una bugia, quindi dico di no, non hanno sempre funzionato. Ecco, va bene. Senta, intanto per questo problema irrisolto e drammatico dell'uso mediatico delle intercettazioni, c'è una soluzione oppure se ne può solo parlare? Allora, ci abbiamo provato all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura. A luglio abbiamo approvato un'importante risoluzione che cerca di dare delle linee guida in prima battuta alla Polizia Giudiziaria e poi ai pubblici ministeri. È ovvio che allo stato dell'arte è rimesso molto all'attività di controllo in prima battuta dei pubblici ministeri e dei procuratori della Repubblica, per evitare che vengano portate all'esterno situazioni totalmente irrilevanti. Però diciamo delle questa cose è una concrete battaglia di civiltà. Diciamo le cose concrete, dottor Palamara. Se il PM non toglie dal fascicolo ciò che è irrilevante per l'indagine, avrebbe l'obbligo di farlo invece, no? Sì, per legge ha l'obbligo di farlo. Ma se non lo fa, però non viene punito. Allora, questo non è vero, perché bisogna distinguere, come dicevo prima, la necessità che ogni 4 anni le attività, anche del pubblico ministero, è valutata ed eventuali profili disciplinari, che non possono essere esclusi. Però va valutato pure nell'immediato, perché potrebbero anche esserci dei profili disciplinari da valutare, quindi sicuramente questo è un tema. Cioè sul quale il CSM è attento su questi casi. Il CSM è molto attento. Ma su questa tematica. Mi fa un esempio. Ripeto, da luglio noi abbiamo un esempio di intervento. La circolare approvata a luglio sicuramente va in questo senso. Ad esempio, anche quando ci fu nel 2008 quel famoso decreto di perquisizione di 1700 pagine fatto dall'allora procura di Catanzaro dei Magistris, intervenimmo come Associazione Nazionale Magistrati, quindi non è vero che non siamo attenti. Quando Senta, ci sono situazioni rilevanti siamo pronti e dobbiamo. E secondo me pure su questo però vorrei. Ci devono essere anche dei mutamenti culturali. È vero che in passato c'è stato un po' di lassismo da questo punto di vista. Oppure di eccesso di protagonismo dei PM. Assolutamente non è mancato. Io su questo penso che invece ci vuole un mutamento culturale, perché oggi la società e l'opinione pubblica lo richiede. Dobbiamo prestare molta attenzione a questo tema. Facciamo un esempio concreto, dottor Palamara. Perché i medici che sbagliano pagano? E i magistrati che sbagliano no? Vabbè, questo era un vecchio refrain che veniva avanzato anche prima della responsabilità civile. Oggi abbiamo per il magistrato che sbaglia una responsabilità penale, una responsabilità contabile, una responsabilità disciplinare, una responsabilità amministrativa e una responsabilità civile con una legge approvata 2 anni fa. 5 forme di responsabilità, penso che siano sufficienti. Senta cosa diceva sempre 30 anni fa, naturalmente prima di tutte queste bellissime leggi, Indro Montanelli a proposito di questo problema. I giornalisti hanno la loro parte di colpa, perché senza dubbio tramutano tutto in spettacolo, tramutiamo, perché anch'io appartengo alla categoria. Noi facciamo sempre della dietrologia, noi facciamo sempre del sensazionalismo, noi abbiamo bisogno dello spettacolo, questi sono dei grossi vizi del giornalismo. Questo aver trasformato il giudice in una star. È una richiesta della magistratura, dei giudici, oppure sono stati giornalisti? È un incontro fra due disfunzioni e fra due colpe, quelle dei giornalisti e quelle della magistratura. Ma le colpe dei giornalisti sono meno gravi di quelle della magistratura. È d'accordo con Montanelli? Devo dire sì, concordo, ci sono delle disfunzioni, sono l'evidenza di una disfunzione della magistratura e del giornalismo, e che venga questa disfunzione dalla magistratura lo rende ancora più grave. Senta, ma appena arrivato Renzi ha attaccato i magistrati per i 45 giorni di ferie, è cominciata lì una nuova lotta? Secondo me è stato un approccio sbagliato, perché bisognava dare priorità a quello che adesso invece mi sembra, anche all'esito dell'incontro di ieri, è stato fatto, le problematiche. Però dopo ovviamente la strada è andata avanti. Ma sono tanti o pochi 45 erano, giorni di ferie? Sono diventati 30. Quindi, quindi adesso siamo tutti pari. Li ha diminuiti, siamo tutti pari. Senta, adesso lo scontro, abbiamo detto, accennato prima, sull'età pensionabile. Molti magistrati resistono, chiedono di ritardare la pensione perché loro sì e tutti gli altri no. Perché? Allora, noi abbiamo espresso un parere come Consiglio Superiore della Magistratura, sottolineando la necessità che ci sia una uniformità. Cioè che non ci governo, sia una norma canzio. Una norma, il governo aveva scelto di andare a 70 anni e secondo me poi se si va a 70 è inutile fare le proroghe, questo voglio dire, anche perché se si prende la strada del rinnovamento generazionale, poi è difficile ritornare indietro. Io penso che bisogna oggi dare molta attenzione alle problematiche della magistratura giovane, dei più giovani, che poi non sono tanto giovani, perché oggi quando si entra in magistratura si è elevata l'età di ingresso, però bisogna dare attenzione a fare una scelta di fondo, ecco, si punta sui nuovi concorsi, puntare sui giovani, oppure si tende a continuare. Insomma, questa è una scelta. Quindi la norma canzio, che sarebbe quella che serve per prorogare, no? Se non ho capito male, alcune figure apicali della Cassazione, che però indubbiamente è in una loro situazione di loro, oggettiva loro difficoltà, solo loro. Questo provvedimento del governo ha riguardato solo questa ristretta cerchia di magistrati, di fronte alla quale noi come Consiglio Superiore abbiamo espresso una valutazione negativa, però evidenziando la necessità che venga fatta una scelta. scelta. Ma dopo non l'incontro necessariamente... di ieri, dopo l'incontro di ieri col governo, è cambiato qualcosa su questo punto? No? Su questo punto è stato affrontato. L'Associazione Nazionale Magistrati propende più per i 72 anni, per andare tutti al regime a 72 anni. Come CSM abbiamo dato due opzioni, sia quella dei 70 o di quella 72. Personalmente ritengo che invece la necessità di guardare più ai giovani. Quindi lei come è per dire, i 70, non per i 72. Tendenzialmente sì. Beh, o sì o no? Sì. Sì. Torniamo al processo penale. Il ministro Orlando aveva garantito la riforma della prescrizione per l'estate. Siamo a novembre, non è arrivata. Arriverà? Io penso che questa è una emergenza molto importante per il paese. Cioè, la proposta di Orlando è quella di allungare di 3 anni, no? Sì, direi... E poi la sospensione dopo il primo giudizio. Qua direi basta a processi inutili, perché se poi c'è la prescrizione il processo diventa inutile. Esatto. Dico che è un'occasione molto importante questa della prescrizione, anche se poteva essere sicuramente migliorata, però intanto è un punto di partenza. Un punto di partenza, però intanto per adesso doveva venire a giugno, non è arrivata, siamo a novembre, aspettiamo dopo il referendum, insomma. Questo i tempi della politica non li ho detto io, quindi non posso che essere spettatore. Senta, dottor Palamara, molti parlano del CSM però come di una struttura inutile e anche un po' opaca. Lo è o no? Queste sono, me lo consente di dire, delle strumentalizzazioni, sì. Perché nel 1948, quando venne fatta la Costituzione, il CSM rappresentava il presidio dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Recentemente con una delegazione siamo stati anche in Argentina, in Europa. Il nostro Consiglio Superiore della Magistratura viene ancora visto come un modello, come un esempio che garantisce l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Qualche volta la giustizia... naturalmente può voler dire anche questo capita, errore giudiziario può capitare, però può essere molto drammatico. Uno tra i peggiori è capitato: Giuseppe Gullotta ha fatto 22 anni di carcere per l'omicidio di 2 carabinieri, omicidio che però lui non aveva commesso. Senta qua, come si sopravvive 22 anni in carcere da innocente, dottor Gullotta? Si sopravvive male. E adesso cosa fa per vivere? Vivo con il prestito di una banca e l'aiuto di buone persone che cercano di farlo andare avanti. Quando è tornato libero però ha detto non ha ancora visto un euro dallo Stato. Ancora purtroppo no. No. Purtroppo ecco, quello che non funziona anche nel codice penale è quello che dopo una soluzione piena come la mia dovrebbe essere lo stesso Stato a darmi la possibilità di andare avanti. Ecco, errore terribile, ma neanche risarcito, non dovrebbe essere immediato almeno questo, dottor Palamara? Assolutamente sì, l'errore giudiziario, lo dicevo prima, è qualcosa che toglie il respiro, quindi è ovvio che di fronte a un accertato risarcito. Allora assolutamente sì. Ma cosa lo impedisce il risarcimento adesso immediato? La vicenda in concreto... No, ma non in concreto, ma solo sostanzialmente comunque dovrebbe essere automatico. La riparazione dell'errore giudiziario prevista dal codice prevede ovviamente una fase di accertamento che io non so, non conoscendo il caso... Vabbè, cosa la senta anche ancora il procuratore Nordio sullo stesso tema delle spese legali. Per il danno da ingiusta detenzione, secondo me si tratta soltanto di quantificare, diciamo, in termini monetari il danno, anche se il patrimonio di sofferenza di una persona che sta in prigione è molto diverso da persona a persona. Quello che però mi colpisce come pubblico ministero che da 35 anni vede processi che si concludono in vario modo, è anche il fatto che la persona che subisce un processo è già sottoposta a una pena in sé. All'aspetto psicologico, all'aspetto mediatico, che è notoriamente molto negativo quando si finisce sui giornali per essere stati incriminati o processati, si aggiunge quello non secondario delle spese legali. Certo. Queste oggi sono assolutamente disconosciute da parte dell'ordinamento e non tutti hanno la possibilità di ipotecare un edificio per pagarsi queste spese. Certo, e quindi lei dice se uno è assolto lo Stato in qualche modo dovrebbe intervenire. Secondo me sì, dovrebbe intervenire. Ecco, ma il CSM non può fare qualcosa? Sì, sicuramente è un tema che dobbiamo riprendere e sviluppare anche nell'ambito delle apposite commissioni che si occupano dell'esecuzione della pena, che è un tema, quello delle condizioni carcerarie, verso il quale sia il CSM che anche il Ministro della Giustizia stanno ponendo molta attenzione. Senta, Palamara, Un grande giurista come Carnelutti diceva che la democrazia si giudica dalle leggi che reggono il processo penale. Lei è d'accordo? Assolutamente sì. E allora? E sicuramente io penso che l'emergenza in questo momento, ne abbiamo parlato prima, di una riforma che sta modificando il processo penale, sia quello di mettere al centro un processo penale che oggi purtroppo non funziona e che rischia poi di trascinare anche dal punto di vista delle condizioni carcerarie l'Italia in Serie B. Questo non ce lo possiamo permettere, anche l'Ocse da questo punto di vista è molto, senta, stato molto preciso. Senta Palamara, Enrico Grattoni, un ascoltatore ci scrive, dice, chieda a Palamara che fine hanno fatto gli accusatori di Tortora. Che fine hanno fatto? Adesso sono in pensione. Non lo so, sono in pensione. Sì. Dopo aver continuato la loro carriera tranquillamente. Sono tutto, sicuramente quella è una pagina che ovviamente non mi appartiene dal punto di vista delle responsabilità, che deve essere presa, ad esempio, come pagina che non deve più ripetersi nella magistratura. Su questo lo posso dire con molta tranquillità. Senta, ma la separazione delle carriere non migliorerebbe in qualche modo la qualità del processo? Assolutamente no, sono in disaccordo con le camere penali, sono fermamente convinto di questo, perché un pubblico ministero che vive della cultura della giurisdizione, come diciamo noi, cioè che ragiona come un giudice e quindi cerca elementi a favore dell'imputato, è garanzia per il cittadino di un PM che appunto non è solo inquisitore. Ma per fare meglio quel processo che si è scelto alla Perry Mason, forse però ci sarebbe una coerenza. Ci sarebbe una coerenza, però c'è bisogno pure di garantire gli interessi del cittadino secondo quello che è scritto nella nostra Costituzione. Senta, dottor Palamara, lei è tifosissimo della Roma, lo so, gioca nella squadra dei magistrati, almeno lì riuscite a superare le divisioni che arrivano dalle correnti, oppure... Assolutamente sì. Assolutamente sì. E chi è il magistrato che gioca meglio in Italia? Beh, troppo facile la risposta qui, ovviamente. Ah, così proprio siamo all'autoincensazione. Mi esonererà da rispondere. Va bene, d'accordo. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Allora, Pietrangelo, che sentiamo? Arriva! I've seen you change the water and the wine. I've seen you change it back to water, too. I sit at your table every night. I try, but I just don't get high with you. Beh... Stamattina in metropolitana i pendolari si sono divisi. C'erano quelli che pensavano e quelli che invece erano pensati. E c'erano quelli che cercavano di mostrarsi stanchi degli uni e degli altri. Poi c'erano quelli che erano arrabbiati. E c'erano quelli che erano veri e quelli che invece no, erano solo pensieri. E se ne andava oggi vuota la metropolitana. Ha chiamato Aladino, ha dedicato a Jasmine questo brano con un messaggio. Possibile che io debba starmene sempre senza lampada? It's Jubilee. We sold ourselves for love, but now we're free. Senza lampada? Povero Aladino. E povera Jasmine. Poveri tutti e due. Delle volte è meglio non vedersi. Senti, Mario. No, ma tu mi devi dire cosa prendi la mattina, perché... ne ho bisogno anch'io. Serve. Potrebbe aiutarci. Preghiere, meditazione. Se sono troppe fanno male. E amore. Quella è la ragione sociale della preghiera. L'amore. Hai ragione. Vai Mario con la tua bolla. A me. Oh, make me over. I'm all I wanna be. Questo è amore, vai. Oh, meno male, con quei languidi pianoforti, quei violini, quelle viole. Vai, che ci racconti? Un po' di pop rock. Allora, no, io volevo tornare con te, Giovanni, sulla questione dell'acquisto di Time Warner. Quello di cui abbiamo parlato ieri. Sì, perché la cosa è in grande movimento, certo. Ovviamente. Stamattina c'era un editoriale interessante sul Financial Times che diceva, allora sì, dal punto di vista economico si può fare forse l'integrazione, certo, e così via, ma che cosa ne viene in realtà all'utente in termini di... vantaggi di, per esempio, che ne so, di prezzo, risparmi, di risparmi di accesso ai servizi, non solo. E per esempio, siamo sicuri che AT&T non userà, per esempio, l'esclusiva che ha avuto di fatto, perché voglio dire, hai acquistato il controllo di Time Warner su, che ne so, Batman, ricordo Harry che Potter. Time Warner è il più grande produttore di contenuti d'America, uno dei più grandi e quindi del mondo. Harry Potter, Batman, la CNN e così via, non lo userà in fondo per fare sbarramento e quindi pratiche di mercato che non vanno bene. La questione è tutta affrontata sotto il punto di vista dell'antitrust, ovviamente. In America c'è lo Sherman Act del 1890 e da lì si partì, per esempio, per smembrare la Standard Oil. Ora, già ieri abbiamo fatto un giochino e secondo me questa cosa qua di AT&T e Time Warner è la moderna, anzi la contemporanea Standard Oil, solo che al posto del petrolio ci sono i media. Ci sono i media. E l'altra cosa interessante, secondo me, però, che non viene valutata bene e che i nostri liberali alle vongole dovrebbero invece valutare con attenzione, riguarda quella che si chiama la libertà di espressione e di opinione, che le concentrazioni di questo tipo Limitano di molto, esatto, totalmente impure, limitano di parecchio. Ora, i liberali alle vongole sono quelli che solitamente non sono mai stati licenziati per aver espresso un'opinione, una linea, un concetto, un'idea, scritto un articolo. Quindi prima di scrivere queste belle teorie forse dovrebbero fare un salto nel mondo reale, quello della pratica quotidiana, e forse per difendere le proprie idee può essere anche caro. Esatto, difendere le proprie idee può essere anche molto caro, e solitamente a pagare non sono i liberali e le vongole, ma gli altri. Gli altri. Cioè, vorrei ricordarglielo. Insomma, si stanno comprando un po' la nostra libertà con queste fusioni. Mi pare proprio di sì. Mi pare proprio di va sì. Va bene, Salamino, no, non va bene, ma Salamino. Sfida e disfida. L'Italia del sì sfida l'Italia del no, e la disfida in questo avvicinarsi del 4 dicembre diventa sempre più arroventata. Massimo D'Alema, cuoco supremo qual è, lascia cuocere nel brodo suo Matteo Renzi, dice infatti D'Alema, lo lascio al suo ego, non mi presto alla sua ribalta. E in effetti, guardando, osservando, studiando al meglio Matteo Renzi, a chi assomiglia? Non credo più a Fonzi, bensì... Chi è che non conosce Ginger Bullo? C'è chi dice che io sono prepotente perché sono bullo d'argagliardo e bello, ma non mi importa, non mi serve niente, chi può parlare con me che c'è il cortello. Renzi ormai si è romanizzato, è diventata proprio un animo, una caratteristica ben precisa. Lui fa colazione, pranzo e cena di nemici. Ormai ha sfidato Zagrebetsky e lì il peso dei tomi si è visto, non ha potuto fronteggiare la lesta maestria del parlatore. Sì, vabbè. E infatti, che ho detto? Ho detto, vabbè, ma fammi usare una metafora. Guarda che il 33% degli italiani sono analfabeti, no, te lo ricordo. E in questo tanto momento il 33% sta guardando la televisione. Ah, il resto è con noi. Allora, lui che cosa fa? Mangia nemici a colazione venerdì. Sulla 7 Enrico Mentana organizza un altro rodeo sulla sua, Mario, come si dice? I news. Sulla sua i-news, pare un'iniezione, sulla sua i-news il presidente del consiglio annuncia il nome del suo prossimo sfidante. Chi è il suo prossimo sfidante? Dai. Chi è? Dai. Ciriaco De Mita. No! Ciriaco De Mita sarà l'intellettuale della Magna Grecia. Beh, a tenere alta la bandiera del no. E a questo punto è ben chiara la strategia elettorale di Palazzo Chigi. Allora, prenotato per il prossimo dibattito, a quanto si è saputo, c'è un agile Arnaldo Forlani. Quindi un acuto Nichi Vendola, un inesorabile Giorgio Cremaschi e un tonitruante Cesare Previti. No, scusate, ho sbagliato. Previti è per il sì. Previti è per il sì. Come Angelina Alfano e come il fratello di lui medesimo, ma come quello sono che lavora per il no loro. No. Questi sono per il sì, Alfano è per il sì, Previti non è del NCCDD, come si chiama questo partito? Non si sa, è il nuovo centrodestra, lui ha lasciato Forza Italia e col nuovo centrodestra con lui c'è Alfano e appunto anche il di lui medesimo fratello, quello che lavora alle poste, anche lui è per il sì, insomma... sfida e disfida, però diciamocelo, chi è in realtà Renzi? Un po' Giger Bullo, ma poi chi? Superbo qual è? Lui è tale quale Tarquino, siamo in grado di anticipare quello che dirà nella prossima sfida e nella prossima disfida. Sono luoghi comuni. No, come l'altro luogo comune secondo cui io resterò famoso nella storia come il tiranno. Ma perché tiranno? Vabbè, governo senza voto de popolo, perché io er popolo nulo so porto. Vabbè, io l'opposizione non la tollerò. E allora che fo? Ammazzo tutti i senatori dell'opposizione. Vabbè, tratto Roma come mio possedimento personale. Vabbè, non sono il primo e non sarò manco l'ultimo. Vabbè, faccio quello che mi pare a me. Vabbè, Roma sta diventando un bagno di sangue. Vabbè. Ma perché tiranno? Questo non lo capisco. Vabbè, un grandissimo proiettile. Guarda, domani dovremo fare un'altra puntata perché par condicio, sì. Capito? Qua tra l'altro Proietti ha un nuovo suo spettacolo, Cavalli di Battaglia, mi pare, bene. In teatro. Mi fa piacere perché è bravissimo. Non posso dire una cosa, perché Pietrangelo dà per scontato che il duello Renzi-De Mita vada per forza. No. Secondo me De Mita è un osso duro. De Mita ha già vinto quest'estate, sempre sulla Sette, un dibattito, non era con Renzi, era con una deputata del PD. Che De però, Mita è un osso duro, ve lo dico io. Perché quando riesci a capirlo è fortissimo. È vero. No, guarda che adesso senza ironia, parte. Lo dico senza ironia. Sì, sì, sì. Senza ironia. Va bene, pubblicità. Mix 24. Tutelare, proteggere e difendere la Costituzione degli Stati Uniti. Dio mi è testimone. Il 20 gennaio del 1969 Richard Nixon viene eletto presidente degli Stati Uniti d'America. Alla Casa Bianca dal 69 al 74 Nixon è uno dei presidenti più controversi della storia americana. Il carattere riservato e schivo e poi i suoi problemi di salute, l'abuso di alcol e di farmaci lo rendono un uomo vulnerabile. Nixon non era un tipo socievole, non amava incontrare gente nuova. Questo è piuttosto insolito per un politico. Penso che avesse la politica nel sangue, anche se era piuttosto insicuro. Il Vietnam e le proteste popolari contro la guerra sono il primo ostacolo del suo mandato. Poi il terrorismo palestinese, ma soprattutto il Watergate. Il 17 giugno del 72, il più grave scandalo che ha coinvolto la Casa Bianca sta per abbattersi su Nixon. Il Watergate è un episodio che deploro profondamente. Ribadisco che faremo del nostro meglio per assicurare alla giustizia i responsabili dell'episodio di Watergate. Detto questo, dobbiamo lasciarci alle spalle il Watergate e occuparci delle questioni che interessano la gente. Ma lasciarsi lo scandalo alle spalle è impresa impossibile. Le dimissioni sono l'unica alternativa all'impeachment. L'8 agosto del 74 Nixon pronuncia il suo discorso di addio. Quando vi arriva un brutto colpo, una grossa delusione, quando sopraggiunge la tristezza, solo allora, quando si è scesi nella valle più profonda, si capisce quanto sia magnifico stare sulla vetta più alta. Questo dopo la pubblicità, naturalmente, la storia di Richard Nixon. Mario, c'è ancora una bolla, no? Sì. Sì. Grande musica stamattina. Funk 48. Vabbè, bello. Allora Giovanni, no, volevo tornare sulle elezioni americane, ci stiamo avvicinando a passi rapidissimi verso l'8 di novembre, giorno delle elezioni, Election Day, e poi si vedrà chi vince. Però c'è una cosa interessante, nel dibattito, nei tre dibattiti presidenziali, ma nel dibattito quotidiano, non vengono citate mai le guerre in cui è impegnata l'America, e non le guerre di Bush che ci sono, lo sappiamo, eccetera, ma le guerre fatte partire dallo stesso Obama. E insomma non è che siano proprio delle robette, perché parliamo di la terza guerra in Iraq sostanzialmente, che è venuta dopo, la Siria, lo Yemen, la Libia, la Somalia. Queste sono tutte guerre in cui l'America è impegnata tuttora, o indirettamente o direttamente, o attraverso la formula della guerra contro terzi o attraverso la formula dell'aiuto diretto attraverso strike aerei, e non se ne fa assolutamente cenno. Sarà perché ha vinto il Nobel per la pace? Non lo so. Che dici? Certo. È molto strano, no? Certo, cinque guerre. Sono lì tutte lasciate in eredità. Cinque adesso guerre. Comunque col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. American Academy of Pediatrics 2016. Esenzione della vaccinazione per i bambini. C'è un incredibile aumento della mancanza di fiducia nelle vaccinazioni, nei bambini, a discapito del loro ovvio successo. Non ci stancheremo mai di ripetere, le vaccinazioni devono essere fatte, ma non perché è un'impressione personale, perché questi sono i dati oggettivi evidenziati dalle osservazioni di studi fatti bene. Allora, normalmente in questa aumentata mancanza di fiducia nelle vaccinazioni ci sono dei genitori che richiedono l'esenzione a scuola sulla base del loro personale convincimento e che tale esenzione sia accettata dalla scuola che i loro figli frequentano. L'American Academy of Pediatrics ha messo allora dei paletti, dicendo alcune cose molto semplici e secche. Uno, il rifiuto alla vaccinazione pone a rischio il bambino singolo e la comunità scolastica che lui frequenta. 2. L'immunizzazione determinata dalle vaccinazioni protegge il bambino e la comunità che lui frequenta. L'American Academy of Pediatrics spinge per leggi che rinforzino una certificazione di immunizzazione ricevuta per tutti i bambini, per cui bisogna certificare che si è stati vaccinati per presentarsi a scuola. L'American Academy of Pediatrics supporta l'esenzione quando è medicamente valida, ma deve essere certificata non da quel babbo o da quella mamma, ma dal medico curante del bambino. E l'American Academy of Pediatrics sollecita, in questo caso, gli stati nordamericani ad eliminare e a non considerare l'esenzione non medica, quella fatta sui convincimenti del singolo genitore. Continuo a parlare di vaccinazioni perché veramente l'onda lunga di internet è impressionante. Equivale al consiglio della portinaia. Mi ha detto la portinaia che succedono queste cose e vediamo che sta diminuendo il numero di bambini che si vaccinano, esponendo tutta la comunità, come giustamente ci dicono i pediatri americani, a dei rischi incredibili e incredibilmente inutili. Per chiudere, Gloria Guerrera, che cosa ci fa sentire oggi? Oggi torniamo alle origini con una canzone per chi ha scoperto finalmente per che cosa è stato creato. Occhi, bocca, orecchie, fatte solo per uno scopo. Amare. Gino Paoli, Un uomo vivo. Io non sapevo per cosa vivevo, io non sapevo a che cosa servivo, ora so. I miei occhi mi servono per vedere te, le mie labbra mi servono per parlare.